Spero che possa essere anche per voi questo. Galati 5. Comincio io a leggere dal verso 1, in realtà leggeremo dal verso 16, però ti voglio dire dal verso 1. Cristo ci ha liberati, non c'è sullo schermo, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque fermi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ti piace? Cosa vuol dire questo verso? Che se sei stato salvato e se sei qui per la prima volta, benvenuto, c'è un messaggio di salvezza pronto per te e Gesù vuole salvarti. Se sei stato già salvato, ti sta dicendo Paolo nella lettera ai Galati che Cristo ci ha liberati per farci essere liberi, ma stai fermo per non tornare nella schiavitù. Ti piace? Sara, ma quindi si può tornare nella schiavitù? E dipende da te. E dipende da me. In Cristo Gesù abbiamo la libertà nel non essere più schiavi. Ma Paolo ci avverte di non metterci noi sotto una schiavitù. Sapete com'è? Qualcuno ti apre una prigione e ti dice questa è la chiave, sei libero. E noi, come gli scemi, ci andiamo a rimettere dentro e ci chiudiamo da dentro. Questo è Galati 5:1. Ti piace? Ragazzi, sembrate sempre più scioccati. Ok? 16, Galati 5 verso 16, grazie Vittoria. Io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne, affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Allora è per questo che c'è un combattimento dentro di te. Sì, non sei schizofrenico, sei salvato, ok? C'è carne e spirito che combatte dentro di te. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro che in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Non faccio alzare la mano, ma tutti quanti noi abbiamo la mano alzata a questo elenco. No? Ragazzi, che shock che ci avete in faccia, mamma mia. Ragazzi, è la Bibbia, la leggiamo anche a casa. Ma il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Chi vuole queste cose? Vediamo se ora alzate la mano. Almeno una di queste cose. Io le voglio tutte. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche dallo Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Quello che succede giornalmente nelle nostre vite è questo, che abbiamo la possibilità di bruciarci in continuazione. Perché? Perché i desideri della carne sono vivi, sono passioni forti, sono passioni esagerate. Vito, per poco no? Non diventavi di nuovo quello di Vin Diesel senza Vincenzo che ti toglie i capelli. Le nostre passioni bruciano in noi nella stessa maniera. Purtroppo la nostra carne ci porta a bruciare molto velocemente. E quello che succede è che Facebook aggiunge legna. Il web aggiunge legna. I film aggiungono legna. I libri che leggiamo aggiungono legna. Le nostre relazioni sbagliate aggiungono legna. Il fatto che non ti accetti e speri di avere la tua approvazione, il tuo valore dagli altri, aggiunge legna. L'impazienza e il voler scartare un regalo prima di Natale. Che brutto aprire regali prima di Natale o prima del tuo compleanno. Ti è mai capitato? A me sì, io volevo un regalo, ma lo volevo sempre prima. E poi siccome era solamente quello, i miei genitori dovevano incartarlo, ma io già lo conoscevo. Sapete, vivere una sessualità al di fuori del matrimonio e prima del matrimonio è esattamente questo. E cioè sapere già qual è il regalo, ma puoi incartarlo in un abito bianco e riaprirlo il giorno del matrimonio, ma sai già com'è, cioè hai già giocato, forse ti sei anche stancato. Aspetta. Le tue passioni, la tua carne, non fanno altro che farti bruciare. La Bibbia dice questo. C'è un po' di fumo, non fa niente. La Bibbia parla molto chiaramente. Non preoccupatevi, abbiamo un rimedio. E il rimedio viene sempre dalla parola di Dio. Galati 5 dice: camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Imparalo a memoria. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete ai desideri della carne. Diciamolo ancora. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete ai desideri della carne. Cammina secondo lo Spirito. Sai qual è la parola che la Bibbia usa per Spirito? Lì, pneuma, respiro. Soffio è la stessa parola che Dio ha usato in Genesi quando ha detto e sia la vita nell'uomo, pneuma, è lo stesso Spirito, è lo Spirito Santo, è lo Spirito che Dio ha messo in noi. Non ti chiede di camminare da sfigato che non fa sesso prima del matrimonio, quello è camminare in una carne debole. Ti chiede, Dio ti chiede di camminare nello Spirito, secondo lo Spirito, guidato dallo Spirito, ripieno di Spirito, seguendo lo Spirito, aspettando la guida che lo Spirito mette in te, non in me, in te, in noi. Incredibile. E in quella maniera non adempiremo i desideri della carne. Sai, la parola precisa, adempiere, è tradotta un po' male o forse un po' in maniera antica nella versione in italiano, ma in realtà il giusto significato di questo verbo è soddisfare. Cammina nello Spirito e non soddisferai i desideri della carne. Che significa questo? Che c'è un fuoco, e non il fuoco che brucia dello Spirito Santo. Questo è un fuoco che ti consuma, che ti può portare lontanissimo dallo Spirito Santo. Questo fuoco ha dei desideri, la tua carne ha dei desideri, il mio fisico ha dei desideri, il mio apparato riproduttore ha dei desideri, la mia mente ha dei desideri, il mio tatto, i miei neurotrasmettitori hanno dei desideri, il mio sistema nervoso ha dei desideri. Ma se questi desideri vengono alimentati, se questi desideri non conoscono un limite e non vengono spenti, possono bruciare tutto. Se continuassi a mettere fuoco qui, già così ci stiamo giocando il proiettore, credo. Quello che ci dice la parola di Dio è questa. Sai perché dovevamo farlo fare a Vito? Perché Vito è uno che ha spento i desideri della sua carne. Amen. Grazie Vito, del tuo esempio, della tua purezza, della tua scelta. Sappiamo che non è stato facile, ma hai scelto. E io voglio ringraziarti pubblicamente per le scelte che hai fatto di radicalità. Tre illusioni, non vi preoccupate, non va niente a fuoco, ci infiammiamo un po', ci appuzzoliamo un po', chi se ne frega. Tre illusioni, volete essere ancora con me? Ci siete ancora con me? Prima di queste voglio leggervi al volo delle statistiche spaventose che ci riguardano. Sai una cosa? Sull'Huffington Post è uscito questo articolo a maggio 2015, cioè le statistiche di come si comportano gli italiani, noi, su Pornhub, che è un sito pornografico. Martedì è il giorno in cui si collegano di più gli italiani. L'orario di maggiore affluenza è tra le 15 e le 16. In media, un italiano trascorre circa 8 minuti sul sito pornografico, il tempo di un orgasmo. Il sito web pornografico ha diffuso questi dati. L'Italia occupa il 7° posto nella classifica delle nazioni in cui i cittadini visitano più spesso il sito Pornhub. Il martedì è il giorno in cui lo visitano di più. Volete sapere le altre caratteristiche? L'orario di maggiore affluenza è dalle 15 alle 16, le festività incidono sugli accessi a Pornhub, cioè a Capodanno, Pasqua e Natale, il traffico degli italiani cala, ma durante l'Epifania aumenta. Non so perché, ma la Befana ci stimola. Questa era una battuta che mi è venuta proprio male. Per chi sta ascoltando la registrazione, ho predicato cose migliori di queste. Quindi ascolta dall'inizio. Le categorie più ricercate sono donne mature, ragazzi adolescenti. Le donne costituiscono il 20% degli accessi complessivi da parte degli italiani su Pornhub e il 3% in meno rispetto alla media mondiale. Il 28% degli italiani che visita questo sito ha un'età compresa tra i 24 e i 35 anni, seguito da un 24% tra i 18 e i 24 anni. Un 20% tra i 35 e i 44 anni. Gli utenti tra i 45 e i 54 anni costituiscono il 13% e il resto molto di meno. Ma nell'età degli upside down, praticamente tra i 16, i 14, diciamo, e i 24, 30, sono oltre il 50% degli italiani che visitano questo sito. Nella top 3 delle pornostar più ricercate appaiono delle italiane, Valentina Nappi, Sara Tommasi, o come uomini Rocco Siffredi, e tra i nomi più ricercati delle pornostar del mondo ci sono Kim Kardashian e altre. Per quanto riguarda le sorgenti di traffico, ci si collega a Pornhub il 52% tramite computer, il 37% tramite il cellulare e l'11% tramite il tablet. Che brutte! La cosa che mi fa più riflettere è che non sono statistiche mondiali. Quando si parla di statistiche mondiali dice vabbè dai, hanno fatto una ricerca strana. No, no, siamo noi italiani. E forse tu sei tra questi, forse io sono tra questi. Ed è veramente il tempo di fare una decisione di purezza. Da qualsiasi forma di impurità che abbiamo letto in Galati 5, oggi è il giorno per fare una scelta di purezza. E quindi voglio concludere parlandovi di tre grandi illusioni che ci bloccano dal fare delle scelte di purezza. Le vuoi sentire? Sei ancora scioccato? 1. Se vuoi dimagrire, non puoi mangiare carboidrati. Non illuderti. Sara, ma stai parlando di predicazioni o stai parlando di dieta? Sapete, ieri sera io sono a dieta, ho perso molti chili e voglio finire di perderli, come sapete. Vero che ho perso molti chili, si vede? Bravi. Bravi. Stiamo facendo la dieta, no? E mio marito ieri sera ha detto, stasera si mangiano spaghetti con le polpette. Buone! Le ha fatte lui, fantastico, fantastico. Quindi le ho mangiate, chiaramente, avrei dovuto mangiare pesce. Ho mangiato spaghetti con le polpette. E stamattina ho chiamato il mio nutrizionista e ho detto, brava Sara, il piatto di spaghetti di ieri sera ti costerà 10 giorni di lavoro che hai già fatto. Erano così buoni! E poi ho pensato, ne è valsa la pena, dai. Erano veramente buoni, però se vuoi dimagrire, non ti illudere, non puoi mangiare carboidrati. E questo ci parla del voler camminare secondo lo Spirito. Se vuoi essere un upside down, se vuoi camminare secondo lo Spirito, se vuoi camminare testa in giù, se vuoi fare la differenza, se vuoi essere quella cristotipo, e cioè la tipologia di Cristo in mezzo ai tuoi amici, allora non puoi camminare secondo la carne. Ricordatelo, forse non ti ricorderai questa cosa, ma ti ricorderai che se vuoi dimagrire non devi mangiare carboidrati. Prima illusione, noi pensiamo, va bene dai, un po' oggi vivo la mia sessualità, tanto poi vado a servire nel weekend, tanto poi faccio l'eccellenza, poi faccio la lode, poi vado a tutti e due i culti, a quello degli upside down, vengo prima alla preghiera, servo nei bambini, faccio, non so, mi straccio, perché? Perché vorrei cercare di compensare. Non c'entra niente, non c'entra niente. Se vuoi dimagrire non puoi mangiare carboidrati, punto. Non ti illudere, non ci illudiamo, ragazzi. Siete ancora con me? Vi piace la grande illusione? Seconda grande illusione. La macchia marrone nel cesso non è Nutella. Te lo dico di nuovo. La macchia marrone nel cesso non è Nutella. Ok? Perché noi siamo così alla Alice in Wonderland certe volte. Oh, questa macchia marrone nel cesso sarà forse Nutella? Ma guarda, l'assaggio un po', la prendo un po', vediamo, è Nutella? E poi ti accorgi che non è Nutella, perché nel cesso la macchia marrone non può essere Nutella. Perché ti dico questo? Perché la maggior parte di noi fanno così, oh, mettermi con una persona non credente sbagliata, vabbè io mi avvicino un po', vediamo. Vediamo se è buono. Ma Sara mi ha detto che non è... Vabbè, ma tanto per lei magari è così, ma per me forse vado bene, dai. Oh, fammi vedere questo sito Pornhub su cui ha predicato Sara. Fammi andare a vedere, che non conosco nemmeno. Fammi vedere, esiste veramente? Cioè, il mio cellulare prende. Non è che non prende questo sito, perché io non l'ho mai... Oh, ma guarda, c'è questo video. Che strano. Oh, vediamo, spingiamo play. Cosa fanno questi due abbracciati, senza vestiti? Stanno spelando le patate. Secondo te, cosa stanno facendo due persone nude in un video su un sito pornografico? E noi siamo così, oh, dai, stiamo da soli, in macchina, a casa, senza luce spenta, con la luce spenta. Senza papà e mamma, che cosa può succedere? Pregheremo insieme, leggeremo la Bibbia, allungo la mano per la preghiera. Oh, non è la mano, è la maglietta. Oh, ma non era Nutella? No, è cacca, te l'assicuro. La macchia marrone nel cesso non è Nutella. E noi, stupidamente, ingenuamente, perché facciamo gli stupidi per non andare in guerra, ci illudiamo che le cose che per tutti quanti gli altri sono sbagliate, forse per te non lo siano. Sei scemo. E sei scemo doppiamente se credi che per te non lo siano, perché credi che gli altri siano più fessi di te. E invece non è così. Io te lo voglio ripetere, non giocare con il fuoco. Non giocare con il fuoco. Perché la macchia marrone nel cesso non è Nutella. Penso che questo punto te lo ricorderai per sempre, è vero? Questo ve lo potete tatuare da qualche parte, ok? Su qua, ok? Lungo. La macchia, anzi, perché non te lo tatui sulla mano? Ok? Così quando stai per fare qualche cosa, te lo ricordi. Quando stai per mettere la tua mano su una figlia di Dio, ti guardi e dici, oh, la macchia marrone è... Oh, dall'altra parte ti tatui la mia faccia, perché se per caso toccherai questa bella fanciulla, figlia di Dio, mia sorella in Cristo, io ti apparirò in sogno. E non sarò la Madonna, ma sarò molto peggio, e le mie armi non saranno solo armi spirituali, ma saranno armi carnali. Amen? Guarda un maschio singolo vicino a te, single vicino a te, e fagli così. Sì, Antonio, fallo a Ruben, fallo ad Antonio. Faglielo. E sai cosa significa questo in barese? Bravo. Sai che significa questo in barese? You got it! Bravo! Terza illusione! Ieri sera ho mangiato gli spaghetti con le polpette. Sapete cosa mi ha detto il mio nutrizionista? Bene, allora c'è un piano di redenzione per te. Domani mattina, cipolle o funghi? Domani mattina, a colazione, cipolle o funghi? In realtà c'è un principio di nutrizione perché mettono moltissimo in moto il metabolismo, ok? Che cosa voglio dire? La terza illusione è che noi pensiamo che non ci sia più rimedio ai nostri errori. Ci illudiamo così tanto che ormai non c'è più niente da fare con noi, che le porte della nostra vita sono state aperte irrimediabilmente, che la nostra verginità non tornerà più, che la nostra sporcizia tornerà sempre a galla. Invece no. Hai sbagliato? Ci sono cipolle e funghi. C'è una possibilità di redenzione. C'è un piano di grazia pronto per te, per darti una cosa nuova, per farti essere una persona nuova, per farti essere una persona pura, per farti essere una persona che vive secondo lo Spirito. Chiaramente, voglio anche dirti che se stai pensando, vabbè, ho fatto tanti errori, tanto poi chiedo perdono al Signore, non hai capito niente della grazia di Dio. Perché la grazia di Dio è una grazia che ti purifica e ti taglia e toglie completamente. Se stai abusando di questa grazia, non hai capito che cos'è la grazia. Se stai continuando a peccare dicendo tanto Dio mi perdona, non è così. Cioè funziona così ma non funziona così, ma te lo spiegherò in un altro momento. Quello che voglio dirti ora è questo. Che se hai mangiato carboidrati la sera, comunque non mangerai il cornetto domani mattina. Non mangerai latte e caffè, non mangerai fette biscottate con la marmellata. Devi mangiare le cipolle. Questo non voglio dire che sei marchiato a vita, ma che sicuramente ci sono sempre delle conseguenze. Che devi vivere, che dobbiamo vivere, che il Signore ci insegna a vivere, ma nella sua grazia possiamo essere recuperati. Amen? Vogliamo alzarci in piedi. Le tre grandi illusioni. Non puoi dimagrire se mangi. La macchia marrone nel cesso non è. Se hai mangiato carboidrati la sera, domani mattina devi mangiare. Ragazzi, ricorderete per sempre questo messaggio. Amen? Non ho finito, è inutile che ti avvicini. Va. No, non ho finito, vai, per piacere. Come devo fare con lui, Signore? Dammi la pazienza del tuo spirito. Guarda. Voglio essere sottomessa a te, vai. Grazie. Grazie, Andrea. Io lo amo. Chi è il responsabile dei runner qui dentro? Chi è il responsabile? Voglio dirti l'ultima cosa. Mi piacciono questi mattoni, fanno sembrare più alta. Voglio dirti una cosa. Cos'è l'estintore? L'estintore è questa. E noi ce l'abbiamo impolverata. Ma questo è estintore. Quando arriva Satana, perché arriva Satana? Quando arriva la voglia di avere un'erezione, un orgasmo? Quando arriva la voglia di guardare diversamente una ragazza? Quando arriva la necessità di masturbarsi? Quando arriva il link di quel sito, di quel video? Accendi, anzi, spegni attraverso la Bibbia. Sara, ma che significa? Non devi prendere le pagine, strapparle e buttarle nel fuoco. Devi aprire la Bibbia e leggerla. Ma che cosa mi dice la Bibbia? Ma vediamo, che cosa mi dice la Bibbia? Ma mi dice, per esempio, vediamo cosa mi dice la Bibbia oggi. Che noi a volte usiamo la Bibbia come l'oroscopo, capito? Vediamo cosa mi dice la Bibbia, non fare così, perché in genere c'è il verso delle emorroidi, non so a voi, ma a me capita così, quando la apro a caso, non so perché, ma ci sono sempre fulmini, saette ed emorroidi, io non le voglio le emorroidi, ok? Sono dolorosissime, non mi piacciono. Però c'è questo verso, e mettiti, sai, io ho tutti i fogliettini, questa non è la Bibbia che uso ogni giorno, la uso solo per la predicazione perché fa figa, e allora... uso la Bibbia figa. Saverio ha riso dopo, come sempre. E dice questo: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero. Wow! Signore, quindi tu lo sai, ti prego, Signore, chiudi i miei pensieri, cancella i miei pensieri. Il Signore ti dice: alzati e lascia questa stanza, chiudi il tuo computer. Ok, Signore, lo faccio. Hai spento. Pure apri di nuovo e leggi Isaia 1, che dice: quando anche i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Ok, Signore, io non voglio peccare alla tua presenza. Tu sei un Dio santo, sei un Dio puro, io non voglio peccare. E poi apri un'altra parte, trovi in Galati, che dice: camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Allora, tramite lo Spirito Santo, comincia ad innalzare Dio. Signore, tu sei puro, io no, ma tu sì. Signore, grazie perché tu sei stato sottoposto alle mie stesse passioni, ma non hai peccato. E io prendo dallo Spirito, cammino secondo questo pneuma, la forza per camminare diversamente, così si spegne il fuoco. E poi continuiamo la nostra preghiera, la nostra parola, questa Bibbia, non usarla per leggergliela a Dio ogni giorno. Gesù la conosce già, ma prendila per te. Non è un libro che può rimanere impolverato, è un libro che deve essere utilizzato giornalmente per camminare secondo lo Spirito, che è così non adempi i desideri della carne. Sai come facciamo noi? Molto spesso pensiamo, no? Chi ha visto il film Luther, anche nel film c'era un certo punto lui che si ammazzava, che si dava un sacco di botte. Perché? Perché voleva ammazzare la propria carne. La propria carne non la ammazzi fisicamente, tranne se non lo tagli, ok? E il pastore ha già predicato su questo la settimana scorsa. Ma lo puoi vivere nello Spirito. Quindi attingi da questa potenza, da questo spirito, da questo pneuma che Dio ha previsto per ognuno di noi. Amen? Oggi voglio fare un appello dentro o fuori. Voglio chiedere senza mezze misure a chi ha deciso di camminare nella carne fino ad ora, ma oggi ha capito che queste grandi illusioni lo stavano bloccando. Io voglio vedere ora avanti ognuno di noi che ha fatto la scelta stasera di cominciare a camminare, forse da oggi, secondo lo Spirito.